marzo non abbiamo avuto questa giornata di lavoro aperta, nel senso che tutti gli anni a marzo abbiamo il comitato scientifico e abbiamo dedicato questa giornata alla discussione dei problemi interni dell'istituto. E oggi riprendiamo con questa seconda giornata di lavoro impegnata sulla relazione, sulla discussione della relazione del professor Schiera sulla Prussia per la polizia. Come loro sanno dall'invito, in maggio del 17 affronteremo poi un problema particolarmente interessante per la regione e con una relazione del competente per eccellenza, cioè il professor che parlerà del problema universitario nel grande Tirolo, diciamo così, prima del 1914. Non aggiungo assolutamente nient'altro, se non un invito a trasformare il più possibile questa esperienza in un lavoro, diciamo, partecipato e a consigliare anche, dare indicazioni sul modo in cui svilupparla in futuro. Cioè, quello che voglio sottolineare è che non c'è nulla di rigido, tutto è flessibile, possiamo determinarlo come vogliamo. L'ipotesi di partenza era proprio questa, cioè di dedicare una giornata intera in modo disteso per non essere costretti nei limiti di un discorso e quindi avere invece il tempo minimo per una riflessione comune su un determinato tema storico di interesse, appunto, l'intreccio tra le due aree culturali tedesche e italiane. Questa ipotesi, ecco, va verificata proprio concretamente. Questo, ringrazio il professor Schiera di aver accettato proprio di affrontare anche un modo un po' nuovo, cioè di affrontare, di prendere il peso di tutta una giornata e di portarla avanti. Quindi passiamo. Sì, io non so poi come andrà a finire, no? Lo sappiamo solo stasera come andrà a finire. Perché effettivamente l'idea di dedicare un'intera giornata al problema della Prussia è un'idea che di questi tempi può fare anche una certa impressione, insomma. Quindi bisogna cercare di spiegare prima perché la Prussia. C'è una dimensione personale, autobiografica, che bisogna dire. Cioè, io mi sono trovato a occuparmi di Prussia per caso, quando un giorno quello con cui studi il professore studiavo, mi ha detto, lei si laurea con me, si laurea su questo argomento, quindi io sono arrivato a occuparmi della Prussia per caso, come tutti più o meno quelli che cominciano a studiare, questo 15 anni fa, insomma, no? E allora sarebbe anche abbastanza ridicolo il fatto di proporre di nuovo dopo 15 anni, no, questa monomania che uno ha della Prussia. In realtà io spero che ci sia dietro qualcosa d'altro, e questo è il senso del seminario, cioè l'esito positivo che il seminario potrà avere sarà solo quello di riuscire a dimostrare come un tema apparentemente così erudito oppure così lontano, insomma, come quello della Prussia, possa dire oggi qualche cosa, possa oggi insegnarci, no? Qualcosa per quel che riguarda la nostra condizione, il nostro modo di vivere politicamente, di capire le cose politiche, così. Ecco, questo mi pare che sia necessario dirlo, perché effettivamente per me l'esperienza è stata di questo tipo. Io sono partito dalla Prussia, ho scritto un libro sulla Prussia, ho fatto carriera con quel libro lì e poi dopo potevo anche smettere, ho cercato anche di smettere, no? Ho avuto la nausea da Prussia e per qualche anno me ne sono disinteressato. Però mi sono reso conto in realtà che dalla Prussia, da questo modesto e lontano e anche grezzo, rozzo, per certi aspetti, episodio della storia moderna, si poteva ricavare delle indicazioni piuttosto importanti, anche per loro. Indicazioni che in ultima analisi riguardano che cosa? Riguardano la problematica di fondo dei nostri giorni, che è la problematica dello Stato, cioè il problema dell'organizzazione politica. Il problema della forma di organizzazione politica che ogni situazione storica riesce a produrre. con la consapevolezza ovvia per qualsiasi persona che abbia un minimo di pratica col metodo storico, che l'unica certezza nella storia è che le cose cambiano, insomma. Quindi, appunto, bisogna farsi carico, per prima cosa, di definire con esattezza i temi con cui si ha a che fare, perché solo definendoli con esattezza si riesce a viverli. Quindi, per quel che riguarda lo Stato moderno, la forma di organizzazione del potere nella quale forse continuiamo a vivere ancora noi, e che comunque ha dominato l'Europa per gli ultimi 300 anni, ecco, per questa particolare forma di organizzazione del potere è necessario capire quali sono i suoi elementi caratteristici, quali sono i suoi tratti denotativi, quali sono quindi anche le condizioni materiali da cui questa forma è venuta fuori, e quindi quali sono anche le possibili contraddizioni che una forma di organizzazione di quel tipo necessariamente, storicamente, a un certo punto deve presentare. Anche per valutare se per ipotesi oggi quelle contraddizioni siano tante e tali da richiedere uno sforzo, questa volta politico, sia di riflessione sia di azione, per superarle e quindi inventare una forma di organizzazione del potere diversa. Cioè, questo è un punto che per me è estremamente importante. Capire l'origine, studiare l'origine dello Stato moderno ha senso nella misura in cui questo serva a capirne la sua essenza oggi. La Prussia in questo nodo, no, anche teologico, insomma, secondo me riveste un ruolo abbastanza importante, perché l'esperienza prussiana, senza dubbio, per certi aspetti, come esperienza statale, è un'esperienza emblematica. Nel senso che probabilmente la Prussia è stato l'ultimo esempio di Stato moderno costituitosi in Europa. Quindi ha potuto godere di una serie di esperienze costituzionali precedenti, che si erano formate e consolidate in modo graduale, lento, tortuoso, eccetera, eccetera, ha potuto godere di queste esperienze precedenti e ha potuto anche razionalizzarle in modo più compiuto. Quindi dalla Prussia si possono ricavare, studiando l'esempio prussiano, è senza dubbio possibile ricavare alcuni aspetti particolarmente caratteristici che in altre situazioni storiche è più difficile nucleare. Cioè nella Prussia noi possiamo vedere in un arco di tempo che copre fondamentalmente tre generazioni il compiersi di un fenomeno che in altre situazioni storiche ha richiesto invece un numero molto più grande, una quantità molto maggiore di energie e di uomini. Quindi da questo punto di vista c'è un altro punto di vista che è quello su cui io vorrei soprattutto richiamare l'attenzione oggi, per il quale l'esperienza prussiana è sintomatica, ed è il fatto che anche per il ritardo con cui in Prussia si è realizzato questo processo di costituzione dello Stato e per il sottostante ritardo delle condizioni sociali e materiali che contrassegnano l'esperienza prussiana rispetto a quella, non so, inglese, francese, del 6, del 7, dell'Ottocento, per tutti questi motivi, l'esperienza, cioè il modello statale che viene realizzato in Prussia nel 700, è un modello, proprio perché più solido, per la ragione che ho detto prima degli altri, no? Che tiene di più, che resiste di più, e che quindi è meno suscettibile dell'epoca successiva di quei mutamenti che invece hanno incontrato i modelli statali, per esempio francese e inglese. Cioè, in qualche misura, il modello statale prussiano, vedremo, cioè non lo vedremo perché io poi non mi occupo dell'Ottocento, ma sarà un continuo riferimento che io avrò, no, nella mia lezione stamattina. Il modello prussiano è molto meno suscettibile di modificazione dei modelli statali invece francesi. Cioè è meno capace di adeguarsi ai mutamenti grossissimi che nell'Ottocento si verificano in campo economico e in campo sociale. Questo cosa comporta? Comporta che alla fine dell'Ottocento, quando finalmente, soprattutto evidentemente nel primo quarto, nei primi vent'anni, nei primi trent'anni del Novecento, quando cioè finalmente anche in Germania quelle modifiche in campo economico e sociale si sono realizzate, Cioè, quando anche in Germania si è realizzata che in fondo la rivoluzione industriale e la conseguente trasformazione sociale che la rivoluzione industriale provoca, il modello statale prussiano è ancora quello di prima. Cioè si viene a creare una divaricazione sempre più grossa tra Prussia-Stato e Prussia-Stato, ma è Germania-Stato, però il modello è sempre quello, e società tedesca. E probabilmente questa è una delle ragioni che spiegano con maggiore approssimazione gli esiti tragici che la storia costituzionale tedesca avrà dopo la Prima Guerra Mondiale. Cioè, la struttura statale tedesca, che è rimasta fondamentalmente quella codificata, direi, da Federico il Grande, si trova incapace, si dimostra incapace, si dimostra troppo rigida per saper assimilare, per sapersi adattare alle mutate condizioni economiche e sociali, e quindi lo sbocco che si ha sul piano politico è uno sbocco necessariamente di tipo duramente autoritario. Io credo che una delle spiegazioni che si possono dare del nazismo, prima di Weimar, della Repubblica di Weimar, poi del nazismo, sia anche questa. Quindi questo è anche un riferimento importante che bisogna sempre tenere presente. Anche perché sulla Prussia e sull'esperienza tedesca si è sviluppata una cultura, direi proprio, una cultura non solo di tipo storiografico, anche proprio di tipo letterario, direi, tipo direi quasi poetico, insomma, no? O fabulistico, insomma, estremamente grossa. E però anche qui divaricata, cioè dopo la seconda guerra mondiale, dopo il modo con cui la Germania è uscita dalla seconda guerra mondiale, c'è stata una grossissima produzione in tutti i settori, insomma, no? della cultura occidentale, volta a condannare tutta la storia tedesca moderna come storia militare, burocratica, come storia cattiva fin dall'inizio, fin dalle lontane origini seicentesche dell'esperienza tedesca, no? Una storia cattiva che necessariamente doveva finire con Hitler. E gli stessi tedeschi, naturalmente, hanno contribuito in maniera perfettamente comprensibile a arricchire questa produzione, per motivi psicologici di ovvia comprensione, no? Dei grossi lavori, dei grossi storici, per esempio tedeschi, i quali sono della seconda guerra mondiale, dopo il secondo guerra, insomma, i quali sono tutti, sono molto seri, tutti orientati a fondare questa argomentazione, questa dimostrazione della cattiveria, della malizia della storia tedesca. Pensare a Ritter, pensare a Rosenberg, questa gente. Prima, invece, fino alla prima guerra mondiale, fino a Weimar, fino a Hitler, durante tutto l'Ottocento, cioè nella fase del decollo, nella fase del grosso consolidamento della Germania come potenza, si era sviluppata una produzione letteraria di tipo opposto, cioè una produzione che era tutta rivolta a dimostrare la grandezza dell'esperienza prussiana, no? Cioè, dimostrare come ugualmente la Germania avesse saputo nel suo complesso interpretare l'eredità prussiana gloriosa degli Hohenzollern e fosse riuscita a costruire un'esperienza che si presentava alla fine dell'Ottocento come assolutamente di primo piano. No, qui c'è tutta la produzione che risale, così per fare ancora qui dei nomi solo grossissimi, no? A Ranke, a Droysen, fino ad arrivare a Otto Hinze, a prima del Novecento, il quale addirittura proprio con un grosso impegno scientifico, non solo di tipo storiografico, ma anche di tipo politologico, sociologico, eccetera, cerca di dimostrare la peculiarità dell'esperienza tedesca e di difenderne la ragione storica. Naturalmente sono, appunto, io le ho definite delle correnti letterarie, nel senso che Si tratta, nell'un caso come nell'altro, di atteggiamenti ideologici che sono storicamente perfettamente giustificabili, ma che hanno un riscontro scientifico sempre relativo, insomma. Però è importante, io vorrei appunto adesso, dopo questa introduzione che ho tenuto del dovuto, entrare invece nelle cose, è importante per esempio fare riferimento a una legge del Consiglio Alleato di Controllo del 25 febbraio 1947, in cui si legge, virgolette, lo Stato di Prussia, che è stato da sempre portatore del militarismo e della reazione in Germania, ha cessato di esistere. Questo è il clima del momento, la sentina di ogni vizio, autoritario, totalitario, militarismo e la burocrazia. Il 13 maggio del 1947 a Norimberga, al Tribunale di Norimberga, era stata dedotta la testimonianza di un grosso protagonista intellettuale del Novecento tedesco, implicato col nazismo, oppure in modo strano, Carl Schmitt, ancora vivo, uomo di grandissimo ingegno, il quale era stato chiamato a fornire la sua interpretazione sul comportamento dell'alta burocrazia ministeriale tedesca durante il nazismo. Quindi lassù nella legge che ho citato prima il riferimento al militarismo, qui il riferimento alla burocrazia. Burocrazia e militarismo, individuate come punti cardinali di questo strano espediente costituzionale prussiano che aveva condotto a Hitler. No? Però il discorso in realtà è molto più complicato, perché se noi cominciamo ad andarci a guardare ci rendiamo conto che esercito, militarismo e burocrazia sono tratti ovvi, comuni dello Stato moderno in quanto tale, non certamente solo della Prussia, anzi, la Prussia si è costruita, ha costruito la propria fortuna anche nella direzione dell'esercito stabile, organizzato, della burocrazia organizzata, seguendo paro paro esperienze che erano compiute per più Francia. E allora, come mai in Germania, solo in Germania, esercito e burocrazia hanno prodotto Hitler e in Francia, per esempio, non l'hanno prodotto, o in Inghilterra non l'hanno prodotto? Ecco, questo è il problema importante. Cioè, questo è il problema, questa è la strada che ci riconduce al discorso che facevo all'inizio. Cioè, il discorso deve essere in realtà, deve vertere in realtà sullo Stato moderno. Cioè, deve cercare di mettere in luce come mai lo Stato moderno in Prussia si è venuto sviluppando in un certo modo. E non al rovescio. Il discorso non deve riguardare invece l'individuazione dei tratti del peccato originale, insomma, non della storia tedesca. Il peccato originale non c'è. Il peccato originale è comune a tutte le esperienze statali moderne. Va precisato anche perché quando si parla della Prussia, soprattutto per il periodo che tratto io, che è quello che va dalla metà del 600 più o meno alla metà del 700, si usa un termine, cioè Prussia è un'espressione convenzionale, no? Nel senso che la Prussia esiste, la Prussia è, tanto per cominciare, una unità geografica, e allora è una regione che sta in cima all'Europa, a destra, a oriente, no? Ma è una regione geografica. Invece con l'espressione Prussia si intende una entità politica estremamente più ampia, che in realtà ha il suo nucleo politico, poi anche dinastico, eccetera, non in Prussia ma nel Brandeburgo, che invece è un territorio che sta sempre a nord della Germania ma al centro. Questa entità politica che noi chiamiamo Prussia, ma in modo convenzionale, è costituita dal nucleo Brandeburgo e poi da una serie di territori spezzettati per tutta la Germania, che vanno dal Reno, cioè da Occidente, fino all'Oriente europeo più orientale, cioè la Prussia dell'Est. E sono territori che per lunghissimo tempo, cioè per tutto il periodo che copro io, rimangono praticamente separati fra loro. Nel senso che in mezzo a questi territori ci sono dei territori che appartengono ad altre case. Solo nel 1772, con la prima spartizione della Polonia, Brandeburgo acquista quel settore della Prussia occidentale e del sud che gli consente di unire il Brandeburgo con la Prussia, tanto per dare un'idea. La Prussia come tale è regno di Prussia solo a partire dal 1701, ma il titolo fondamentale dal punto di vista della legittimazione politica di questa entità che noi chiamiamo Prussia è l'elettorato di Brandeburgo, cioè è il titolo che pertiene al principe di Brandeburgo come principe elettore del Sacro Romano Impero. Questo tanto per dire, no? Il processo di acquisizione, io l'ho studiato l'altro ieri, tutto questo è una fatica tremenda sull'Atlante, no? Il processo di acquisizione non lo spiego neanche, insomma, comunque è più o meno questo tipo, parte all'inizio del 600, no? Nel 1600 Giovanni Sigismondo, all'inizio del 600, acquista i primi possedimenti al di fuori del Brandeburgo, Kleve, Marche, Ravensburg, a occidente la Prussia orientale, fino al 1618, con la pace di Vestfalia, che finisce con i due trattati di Münster e Osnabrück, al 1648 si acquistano la Prussia, il Brandeburgo acquista nuovi territori come Rhein, Halberstadt, Minden e ha delle aspirazioni su Magdeburgo e così via, ma è solo nel 42 che Federico il Grande, 1742, Federico il Grande occupa la Slesia, e nel 72, 1772, si appropria con la spedizione della Polonia della Prussia occidentale e meridionale. Quindi è un processo estremamente lungo. Su questo territorio così sparso, sparpagliato, confuso, complicato, eccetera, gli Hohenzollern riescono a costruire una potenza politica di primissimo rango. Gli Hohenzollern. Gli Hohenzollern che contano in questa storia sono tre e sono tutti nel giro di un secolo. Sono quasi di padre in figlio. Il primo grande Hohenzollern che ci interessa è quello che si chiama il grande elettore, che è Federico I, Federico Guglielmo I, il quale sale al potere, prende il trono. Diventa principe nel 1640 e rimane fino al 1688, se non mi sbaglio. Quindi copre tutto il periodo tragico successivo alla guerra dei trent'anni, la guerra dei trent'anni che era stata per la Germania veramente una guerra di devastazione, il Vietnam di oggi, insomma, una guerra di devastazione assoluta, di distruzione di ricchezza, di popolazione, tutto. Quindi una situazione tragica dal punto di vista economico, dal punto di vista delle strutture amministrative, dal punto di vista generale di quello che era il contesto politico. Federico Guglielmo, il grande elettore, gestisce questa situazione così deficitaria e vedremo riesce a sollevare il paese a un livello organizzativo e anche di vita soddisfacente. Dopo c'è il figlio che è Federico I, quale nel 1601 diventerà re di Prussia. Questo qui è un re che fondamentalmente non fa molto, probabilmente va studiato tutto da capo, ha dei grossi interessi di tipo, direi già, illuminato. Nel 1701 si fonda l'Accademia delle Scienze, nel 1699 si era fondata l'Accademia delle Arti. La moglie di Sofia Carlotta è particolarmente importante e significativa per questo sviluppo in senso culturale che viene dato sotto il regno di Federico alla Prussia. Se incomincia o si consolida in questo periodo l'arrivo in Prussia di grossi personaggi, studiosi, scienziati, che vengono soprattutto dalla Sassonia, che è entrata in crisi a fine del 600, ma che vengono un po' da tutta la Germania, ma il secondo grande Hohenzollern che conta è Federico Guglielmo II, che però sarà primo come re, che è secondo come principe elettore, primo come re, che è chiamato il re soldato, anche il re sergente, a seconda dei casi, ed è colui che riesce a fare lo Stato in Germania. Vive fino al 1740, nel 40 sale al trono il figlio Federico II, il grande Federico, il quale è il flauto, va della Slesia, è un grandissimo personaggio. Ed è il personaggio su cui si è incentrata la storiografia sulla Prussia per dire è stato Federico il Grande a fare la Prussia. E non è vero. E non è affatto vero. Cioè, Federico il Grande non ha fatto quasi nulla dal punto di vista della costruzione dello Stato. Federico il Grande ha utilizzato una macchina meravigliosa che era già stata messa a punto quasi nei dettagli più minuti dal suo predecessore, per giocarla, questa macchina, su un circuito che è il circuito obbligato dell'epoca, ed è il circuito del sistema europeo degli Stati. Perché lo Stato moderno, non solo quello prussiano, non tanto quello prussiano, lo Stato moderno come forma di organizzazione del potere, come modo di stare insieme politicamente, caratteristico dell'Europa occidentale a partire dal 1005, dalla fine del 1005, è una entità politica che non si può capire, non si può, di cui non si può cogliere il significato se la si isola dal contesto degli Stati che regge il sistema internazionale europeo a partire appunto dal 500. Questo è un punto decisivo. Cioè non è possibile per tutto questo periodo qui, per il 6, 7 e anche l'800, parlare dei singoli Stati senza tener conto che questi singoli Stati sono pezzi più o meno importanti di un mosaico che vale nella sua totalità. Il mosaico è l'intera Europa, è il sistema europeo degli Stati. Federico il Grande si trova a disporre, ripeto, di una macchina perfettamente efficiente e la fa giocare in questo quadro. E la fa giocare perfettamente bene, come vedremo da qualche documento che oggi pomeriggio possiamo leggere. Insomma. Le valutazioni che Federico il Grande compie alla morte dell'imperatore Carlo VI, a proposito dell'invasione della Slesia, sono impressionanti. E sono valutazioni di questo tipo qui, cioè Federico il Grande è stato il grande stratega, è stato colui che ha saputo interpretare perfettamente il senso politico e storico del suo tempo, utilizzando, per dar corso a questa interpretazione, uno strumento che era stato forgiato dal suo predecessore, dai suoi due predecessori. Polizia e lumi, avevo quasi finito. Polizia e lumi, ecco, cosa vuol dire, no? Polizia vuol dire una cosa molto complicata, ma molto interessante, sempre per capire come sono andate a finire le cose, come sono andate a svolgersi le cose fino ad oggi. Polizia vuol dire oggi quel settore dell'apparato esecutivo a cui è stata affidata la gestione delle istanze repressive dello Stato, no? Questo vuol dire oggi polizia. Però appunto si tratta di un settore esecutivo. Bisognerebbe farla ritroso la storia per arrivare all'origine di questo concetto, ma è difficile. Allora adesso risaliamo subito all'origine. Polizia all'origine, nel linguaggio, nella prassi, la teoria e nella prassi costituzionale dell'Europa moderna, polizia, polis in Francia, polizai in Germania, poi con tutta una serie di diverse espressioni, insomma. Non è nient'altro che il recupero che viene compiuto agli inizi dell'età moderna in corrispondenza con la fondazione dello Stato moderno dell'antica concezione della politica a base aristotelica. Cioè, polizia vuol dire politica. Polizia vuol dire politica soprattutto in contrapposizione alla dimensione prevalentemente religiosa che invece aveva retto le questioni politiche nei secoli precedenti. I politiques francesi, quel gruppo di meravigliosi uomini che riescono, con a capo Jean Bodin, no? Che riescono a far uscire la Francia dai grossi pasticci politici e costituzionali seguiti alle guerre di religione, alla fine si nascondono dai 500, ecco, i politiques, vengono chiamati politiques in modo dispregiativo dai teologi e dai cattolici zelé del 500 francese per il fatto che si occupano solo di polis, toujours polis, toujours polis. E questi si occupano di polis perché? Perché si sono resi conto che l'unico modo per assicurare l'ordine, la pace, il benessere all'interno della comunità politica è quella di trasferire le questioni teologiche all'interno delle chiese e di attribuire al principe solo la competenza in campo politico, cioè nel campo delle cose concrete, nel campo delle cose della terra, nel campo della buona organizzazione. Quindi creazione di uffici, creazione di una burocrazia che serva a questo, quindi espansione di tutti gli aspetti terreni della dimensione politica, interesse per l'economia, interesse per il fisco, interesse per l'esercito, interesse per tutte queste cose che sono estremamente terrestri, estremamente... Questa è la polis dei politici della fine del Cinquecento, ma questa è anche la polis... tedeschi, anche la polizai, insomma. Polizai è l'insieme delle attività di governo che il principe, come sintesi, come momento sintetico della nuova organizzazione politica che si va creando nello Stato, compie per regolare la vita civile, terrena, del paese. Qui voi già capite che è molto importante, solo che non si può evidentemente fermarsi a questo punto, che è il punto decisivo, insomma. È molto importante capire quali sono i referenti a cui questa polis o questa polizai si rifà. Ordine, benessere, pace, sicurezza, tranquillità, per chi? In nome di che cosa? Chi ha bisogno in questo periodo di tutte queste cose? Chi ha bisogno di stare in pace? Ecco, questo è il punto cruciale. Rispondere a questa domanda significa anche capire a chi serve lo Stato. Significa capire perché lo Stato nasce, perché lo Stato ha la sua fortuna. Probabilmente significa anche capire perché lo Stato prima o poi morirà, no? Una misura in cui quelli a cui lo Stato serviva quando è nato, per ipotesi, cessino di esistere. O comunque nella misura in cui ci sia dell'altra gente che ha degli interessi diversi e nuovi, che hanno bisogno di una forma di organizzazione del potere nuova e diversa. Sicuramente quelli che hanno più interesse a... allo Stato, all'ordine, alla pace, alla sicurezza, alla tranquillità e al benessere, quindi alla polizia, quindi allo Stato, non sono i vecchi ceti di origine feudale. Non è il clero e non è la grande nobiltà. Qui andava molto bene il sistema signorile di origine feudale, in cui esistevano le condizioni migliori per esercitare i propri privilegi, le proprie signorie. È invece molto probabile che la nuova forma di organizzazione del potere che prevale in questo momento, appunto dopo un periodo di grandissima crisi, di conflitti, di sangue, no? Le varie religioni, tra l'altro l'intera Europa, ecco, quelli che hanno più interesse a tutto questo qui siano i ceti che stanno emergendo come ceti mercantili, come ceti manifatturieri, come ceti che insomma vedono nella nell'attività economica la base principale della loro esistenza sociale, civile e politica. È molto probabile che sia la borghesia nascente la forza sociale a cui si riferisce l'esperienza, l'esperimento poliziesco, di polizia, cioè l'esperimento, come ho detto prima, di intervento del principe per garantire ordine, pace, sicurezza, eccetera. E quindi anche questo qui è un punto che, su cui bisogna riflettere e che bisogna tenere presente. Anche perché si scoprirà, qui concludo il discorso sulla polizia, che via via che questa classe, questo ceto, questa forza sociale, si trasforma in classe e acquista dominanza all'interno del contesto sociale, acquista coscienza del proprio peso economico e politico, acquista coscienza della propria forza e si organizza, appunto diventa classe, da ceto che era, e attraverso la rivoluzione industriale, prima in Inghilterra, poi in Francia, poi su tutto il continente, sa darsi anche a livello di società, si sa porre come società civile, no? Si sa porre come insieme integrato e organizzato di interessi privati, via via che cresce, insomma, questa classe, cresce anche la sua aspettativa, la sua attesa di gestire in prima persona il potere. Consolidata la propria posizione, io sono un po' intimidito perché c'è qui Popper che è uno stacco economico, quindi lui io non le so. Ma comunque, via via che consolida il potere, naturalmente questa classe tira, consolida il potere economico e sociale, tira anche in padronanza il potere politico. Non ha più bisogno di un principe che la tuteli, non ha più bisogno di un principe che costruisca e difenda la gabbia di tranquillità entro cui il ceto mercantile ha bisogno di stare per stare tranquillo, per accumulare, per farsi forte, capito? Una volta che si è fatto forte, può uscire dalla gabbia e può impadronire. E quindi è qui il problema della trasformazione dello Stato tra 7 e 800. Qui è il problema del passaggio dallo Stato assoluto, cattivo, pessimo, col principe cattivissimo che uccide tutti i bambini, queste cose qui, allo Stato di diritto luminoso e felice dell'Ottocento. Cioè, il problema è questo, che la borghesia, consolidatasi come classe dominante, afferma la propria pretesa a gestire in prima persona il potere, a trasferire dal sociale al politico il proprio potere. Quindi si inventa lo Stato di diritto, costituzionale, parlamentare, il Parlamento, no? Che diventa l'organo principale dello Stato, il legislativo, che è il primo potere, il legislativo, il Parlamento, in cui appunto la borghesia è rappresentata. Qui si fanno le leggi, lo Stato di diritto, perché ci sono le leggi che regolano tutto, tutto tiene da quel punto di vista lì, no? E cosa rimane? Dove è andata a finire la vecchia polizia? La vecchia polizia si riduce, perché adesso, mentre prima il ruolo principale era svolto da questo intervento costante, meticoloso, vedremo, circostanziato, del principe per regolare le cose, via via la preminenza viene invece assunta dall'interesse esplicito, organizzato di una classe dominante a gestirsi il potere. E se lo gestisce attraverso il legislativo. E la polizia diventa l'esecutivo. E c'è un bel libro di un grande tedesco liberale, costituzionalista, degli anni 30, mi pare, dell'Ottocento, cioè Robert von Moll, che è intitolato esattamente non posso dirlo perché non ricordo esattamente come è intitolato, ma all'incirca è intitolato La polizia, insomma, secondo i principi dello Stato di diritto. Allora si vede che c'è lo Stato di diritto, e la polizia è diventata l'esecutivo. Progressivamente la polizia si ridurrà ancora fino a diventare quel pezzettino di esecutivo a cui è demandato il manganello, basta. Ma lo sviluppo è lineare, è lo stesso. Cioè, lo Stato di oggi è ha le sue radici reali nello Stato di 300 anni fa, secondo me. Le sue radici reali in senso proprio, sia dal punto di vista materiale, nel senso degli interessi che questa forma di relazione del potere difende, e sia da un punto di vista anche formale e costituzionale, nel senso della struttura che lo regge, che non è cambiata. Che non è cambiata in modo strutturale, cioè che non è cambiata al punto da far sì che oggi si trovi di fronte a un modello di tipo radicalmente diverso rispetto a quello iniziale. Secondo me è sempre, però queste sono cose che sono estremamente contraddette. Ecco. Allora la Prussia diventa ancora importante perché appunto lì si vede dall'esperienza prussiana che questo Stato effettivamente dalla metà del 600 alla metà del 900 è rimasto lo stesso. Questo è la cosa drammatica, no? Questo è anche perché l'esperienza prussiana è drammatica. Non perché erano cattivi tedeschi, che sono della bravissima gente, hanno dell'ottimo vino, eccetera, ma è così perché la strana e fortuita composizione storica dell'esperienza statale in Germania è stata che in Germania il modello statale fondamentalmente non si è modificato in tre secoli. Quindi c'è stato il crollo, che negli altri paesi non c'è stato, perché negli altri paesi lo Stato, così come era nato, così come si era organizzato, ha saputo adeguarsi, ha saputo adattarsi, ha saputo appunto la polizia ridurla a semplice manganello. Qui adesso, infatti qui c'è un pezzettino scritto che è senz'altro più bello, insomma. La verità è che in Germania si svilupparono con maggior coerenza e linearità i caratteri dello Stato moderno come forma storicamente determinata di organizzazione del potere, poiché le condizioni storiche di determinazione di tale forma durarono più a lungo che altrove. Fu così inevitabile che il venir meno improvviso di quelle condizioni, non accompagnato da uno sviluppo sociale e istituzionale adeguato, determinasse il crollo dello Stato. Cioè della fusione funzionale e storicamente, economicamente, socialmente, ideologicamente, istituzionalmente giustificata degli elementi di potere, esercito, burocrazia, ma ancor prima del rapporto autorità-suddito su cui lo Stato moderno era sorto. Solo così si comprende che quegli elementi, sciolti dalla sintesi di potere lo Stato in cui a lungo avevano trovato la loro ragione storica, abbiano potuto avere per qualche tempo vita autonoma, degenerando inevitabilmente in impieghi e risultati aberranti perché non più rapportati all'unità di potere su cui soltanto può basarsi ogni e qualsiasi sintesi politica. Guardate che questo poi è il problema dei corpi separati, in realtà oggi, che si spiegano anche in questo modo. I lumi invece è una cosa molto più complessa, perché i lumi non intendo i lumi come illuminismo, perché l'illuminismo è un termine tecnico, cioè è un concetto che ha una sua definizione tecnica, oppure ha moltissime definizioni tecniche, ciascuna estremamente definita, per cui ci sono quelli che dicono che l'illuminismo è cominciato nel 1712 e finito nel 1785, quelli che dicono che è cominciato nel 14, fino all'83, insomma, a seconda dei punti di vista, dei criteri che si usano, se si vuole fare un discorso tecnico sull'illuminismo, e soprattutto dal punto di vista filosofico, insomma, della cultura filosofica dell'illuminismo. Per esempio, non so, per quel che riguarda la Germania, c'è un bellissimo libro di Merkel, di Nicolao Merkel, sull'illuminismo tedesco, il quale dice che comincia nel 1727, mi pare, 27, finisce, mi pare, nel 1783, non so, insomma, a me questo qui non interessa, non è il mio campo, io non ne intendo di queste cose. Per lui, invece, intendo una... dire una mentalità, ecco, un tipo di mentalità nuovo perché diverso rispetto al precedente, no? Che si afferma anche qui in tutta Europa e che sviluppa un'attenzione, una metodologia, ma anche una ricerca, Steck Messige, no? orientata a uno scopo, adeguata a uno scopo, ecco, tutto questo in modo, secondo me, perfettamente omogeneo e coerente con tutta la vicenda costituzionale che ho detto prima, cioè in modo omogeneo e coerente con il bisogno di pace, di ordine, tranquillità, benessere, eccetera, con la nascita dello Stato, con la nascita e lo sviluppo di quegli interessi materiali che ho detto prima e così via. Cioè, in altre parole, i lumi per me sono l'ideologia di quest'epoca. Anzi, per me, veramente, sono l'ideologia tout court. Sono sicuramente l'ideologia di quest'epoca. Cioè, sono il modo di pensare, ma sempre, continuamente riferito alla prassi, cioè all'azione, che caratterizza tutto questo periodo della storia dell'Europa e che caratterizza anche l'esperienza tedesca. E che da che cosa a sua volta è segnata questa mentalità? È segnata dalla ragione, no? La ragione, la scienza, l'individuo, e questi grandi dream, non so, i grandi massi erratici, no? di questa mentalità, che peraltro è una mentalità integrale. Ma direi che il carattere di fondo più significativo di questa mentalità è ancora un altro, cioè è proprio la Zweckmäßigkeit, cioè è l'adeguatezza allo scopo, cioè è la progettualità di ogni riferimento teorico, di ogni produzione teorica, di ogni, ma anche di ogni pensiero, direi, insomma, civile. Cioè si pensa solo in modo Zweckmäßig. Si pensa solo per realizzare, è il progetto che segna questa mentalità, cioè la capacità che si attribuisce all'uomo, all'individuo, ma all'individuo anche socializzato, perché c'è il patto che socializza, la capacità che si attribuisce all'uomo di gestire il proprio destino, i propri mezzi, e sono mezzi concreti, perché sono la scienza, no? Pensiero scientifico. Pensiero, ma non il pensiero scientifico interessa proprio a un certo punto, la scienza praticata, insomma, per tutti i 6, 7, 8, 100. Sono nel campo soprattutto del sociale i nuovi orientamenti che emergono, l'economia, il diritto, la scienza dell'amministrazione, tutte prospettive che servono a progettare, a realizzare. Questo sono i lumi, secondo me. E infatti, secondo me, il vero pensiero politico dell'età moderna in Europa non è tanto il pensiero politico dei grandi trattatisti, no? Non sono i grandi volumi in foglio in cui si discute di tutto, ma sono i noiosissimi trattati che si occupano appunto del fisco, dell'amministrazione, di tutte queste cose, della codificazione, della regolamentazione giuridica, no? Di tutte queste cose. Perché questi sono i bisogni che quella medesima forza sociale che aveva visto che richiedeva la gabbia istituzionale, lo Stato, e quindi delegava al principe il potere, il monopolio del potere legittimo, la forza legittima, no? Come dice Weber, questa stessa forza sociale esprimeva sul piano teorico, sul piano scientifico, se volete così, gli stessi bisogni in questa direzione. D'altra parte anche i grandi trattati in realtà fanno da cornice a questo e non ad altro. Schumpeter, per esempio, giustissimamente dice che il diritto naturale, che era la disciplina trionfante, no? Il diritto naturale razionale, la disciplina trionfante del 6 e del 700 dal punto di vista del pensiero politico, il diritto razionale in realtà vale oggi, vale moltissimo, per il fatto di aver fondato le moderne scienze sociali. fatto di aver dato il quadro entro cui, e vedremo anche noi oggi appunto in qualche documento, come i grandi teorici giusnaturalisti tedeschi, prussiani, i tre, Pufendorf, Tomasio e Wolff, sviluppano i loro grandissimi teoremi, no, filosofici, per poi arrivare al nucleo della questione, che è un nucleo estremamente materiale e un nucleo estremamente progettuale, il nucleo della felicità materiale e del nucleo del principe e del rapporto sudditi principe utile per soddisfare e realizzare la felicità materiale. Quindi i lumi sono questi, cioè i lumi e la polizia, in fin dei conti, sono la stessa, cioè sono due aspetti, dire perfettamente non vuol dire niente, molto integrati, di una situazione che secondo me ha dei caratteri di specificità molto spiccati. Naturalmente tutto questo discorso è un discorso che si basa sopra l'uso di un metodo un po' stravagante da parte mia, nel senso che, cioè, il mio amico Roberto Ruffilli, no, dice sempre che noi due non siamo mica degli storici, nel senso che noi abbiamo qualche resistenza appunto ad andare a verificare queste idee che prevalentemente copiamo dagli altri, o comunque insomma lavoriamo nei fatti, no? Ecco, ed è abbastanza vero, cioè questo tipo di discorso in realtà è possibile solo utilizzando una metodologia di tipo tipologico, insomma, no? Di tipo comprensivo, cioè una metodologia che trascura molte cose, che lascia da parte un sacco di contraddizioni, un sacco di aporie, un sacco di aspetti contrastanti. È chiaro che qui siamo in una fase di transizione, insomma. È chiaro che lo Stato moderno, come Stato assoluto, è veramente un lungo sentiero che conduce da qualcosa a qualcos'altro. Ecco, quindi è chiaro che si tratta di un sentiero che non è rettilineo, è un sentiero su cui ci sono sassi di tutto, insomma. Ci sono ricordi concreti del passato, soprattutto poi in situazioni più arretrate come quella tedesca. Le antiche aspettative feudali, signorili, gli antichi privilegi permangono a lungo e contrastano a lungo il cammino che io ho dipinto come cammino lineare della poesia del principe. E anche dal punto di vista della mentalità è lo stesso. È chiaro che le novità ideologiche sono novità che faticano enormemente ad affermarsi, che sono continuamente contrastate da resistenze dure, violente, però ci sono tanti tratti, aspetti che fanno pensare che la tendenza sia quella lì, ecco. Cioè che l'aspetto predominante sia questo che ho cercato di descrivere io, piuttosto che non la persistenza di fenomeni, di situazioni antiche, no? Pensate per esempio a che cosa ha significato, e qui entriamo di nuovo nello specifico tedesco, per la Germania, in modo particolare per i paesi riformati, per la Prussia, per esempio, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista ideologico, sia dal punto di vista costituzionale che dal punto di vista ideologico, la riforma di Lutero, è stato un intervento di chiusura, un cemento pazzesco, una forza veramente impressionante. Impressionante perché, intanto per cominciare, il principe territoriale tedesco, nella misura in cui si riforma, assume un atteggiamento di opposizione con l'imperatore, che è rimasto cattolico. Quindi si incammina decisamente, in modo irreversibile, verso l'affermazione della propria sovranità come principe. Cammino verso l'acquisizione della sovranità dei principati territoriali tedeschi è esattamente questo. È un cammino che si conclude nel 1648, con la pace di Vestfalia, quando appunto si verifica la si riconosce la sovranità territoriale dei ceti, la loro partecipazione al voto su quasi tutti gli affari italiani, soprattutto si riconosce il diritto di alleanza dei ceti. Ceti imperiali, scusate, adesso qui, cioè, poi c'è un sviluppo, ma mi sto riferendo, i ceti imperiali sono in questo caso i principi territoriali. Il principe territoriale viene attribuito dalla pace di Vestfalia, con la garanzia della Svezia e della Francia, la possibilità di stipulare alleanze per conto proprio. Quindi, in pratica, a questo punto, il principe territoriale è sovrano, è autonomo. E la sovranità si è sviluppata, si è raggiunta proprio attraverso questo. Poi, non so, dal punto di vista ancora costituzionale, le conseguenze politiche, no, della riforma e del significato anche teologico, insomma, della riforma sono grossissime. Perché evidentemente si tratta di una intensificazione, di un'occasione meravigliosa per intensificare il potere accentrato del principe. Il principe che elimina, si impadronisce di uno dei principali antagonisti del proprio potere, cioè del clero, cioè della Chiesa. Il principe che si arricchisce, perché Federico il Grande Elettore, Federico Guglielmo, si arricchisce enormemente, come si era arricchito a Ricottavo, in Inghilterra, d'altra parte, vendendo, cioè impadronendosi dei beni della Chiesa. Ma non solo, da un punto di vista ideologico, il principe che è l'autorità, che è la obbligaita, a cui si deve comunque obbedienza, il principe che è obbligaita sia come capo dello Stato che come capo della Chiesa. Quindi c'è anche lì un'intensificazione della legittimazione del potere del principe enorme, eccezionale. Tutto questo contribuisce a orientare l'esperienza tedesca riformata nel senso accentrato, unitario, organizzato dello Stato moderno. Poi ancora, per esempio, dal punto di vista sempre ideologico, la riforma, il pensiero riformato svolge un grossissimo ruolo nel campo della, anche proprio della cultura, insomma, dell'educazione. Cioè Melantone, il preceptor Germanie, è quello che riesce a introdurre dentro la dominante filosofia aristotelica delle università, delle accademie, delle scuole tedesche del Seicento, i principi luterani e la scardina. Questo è anche molto importante. L'attenzione continua che in Germania nel Seicento si esalta per i fenomeni più modesti, più piccoli, più organizzativi, più concreti della vita civile, è un'attenzione che anche lì, anche essa trova la sua, una base teorica nel particolare atteggiamento luterano rispetto ai problemi della vita. Un bellissimo passo di uno scritto di Lutero dice che il principe dovrebbe sostituire sul suo scudo, alla spada, allo scettro e alla corona e all'alloro il pane. Quindi questa dimensione materiale, no, della legittimazione del potere svolge un ruolo grandissimo, secondo me, in tutto questo processo. Cosa resta da dire? Cioè, bisognerebbe entrare nel merito, e fare una breve spiega delle... Sei stanco? Se voi siete stanchi, per questo sì. No, veramente decidi tu. Sento per 5 minuti e poi... non so, come volete voi. Puoi fare anche 3 quarti d'ora. Sì, allora, così. Però 5 minuti proprio... Esatto. Dovrebbe diventare più analitico, solo che sarà anche più faticoso, insomma, perché io purtroppo ho fatto la prima parte in un modo che non avevo tanto previsto, e quindi adesso devo cercare di rintracciare i pezzi che mancano, insomma. Volevo però partire con una citazione che mi sembra molto bella, di uno storico tedesco che va dalla maggiore alla giovane, cioè in Germania, che è Ernst Wolfgang Bückenförde, che in un suo saggio appunto sulle conseguenze politiche della pace di Vestfalia, che però ho tradotto anche in italiano, dice così: mentre ad esempio in Francia la monarchia riuscì a centralizzare progressivamente presso di sé le competenze signorili, differenziate in un'amplissima scala gerarchica, ma ciascuna in sé compiuta, di innumerevoli titolari di potere, e a depotenziare politicamente i poteri feudali e di ceto, su fino ai parlamenti, in modo da costruire un potere statale accentrato e un'organizzazione di ufficio unitaria incentrata intorno alla monarchia. Mentre invece in Inghilterra la monarchia, nel corso di questo medesimo tentativo, si scontrò con l'opposizione dei poteri cettuali e locali, finché, dopo la caduta degli Stuart, il Parlamento divenne il punto di cristallizzazione di un potere statale unitario, in Germania lo Stato non sorse dall'impero e dalla monarchia, ma dai poteri feudali, i quali a loro volta si erano rafforzati in signorie territoriali che perseguivano per sé, finché ne sorreggeva la loro forza politica, il modello organizzativo dello Stato moderno. Anche l'impero volle divenire Stato, ma fu superato sulla via di tale processo proprio dai signori territoriali. Tale risultato è codificato nell'articolo 8 della Pace di Vestfalia, che è quello a cui facevo riferimento prima quando dicevo che appunto questi ceti dell'impero, che sono poi i principi territoriali, gli antichi signori, hanno riconosciuta la loro sovranità, soprattutto in campo militare, no? E questa qui è un'osservazione molto intelligente, perché consente di vedere in sintesi, in modo comparato, qual è stato lo sviluppo costituzionale dello Stato moderno nei tre grandi momenti, no? Nei tre grandi modelli che ha avuto, cioè in Francia, in Inghilterra e in Germania. Ecco, infatti è noto che, no, che lo stesso impero sviluppa a partire dalla fine del 400 con Massimiliano dei grossissimi tentativi di riorganizzazione politica, costituzionale e amministrativa, solo che non ce la fa. Non ce la fa perché in realtà il momento, la calamita politica degli interessi che si stanno costituendo in Germania non può essere l'impero, ma sono le entità territoriali. Perché? Perché è solo nell'entità territoriale che si realizza quella mistura, quel cocktail, no, di giusta estensione, quindi di pregnanza del governo e della possibilità di intervento del principe, di omogeneità culturale, eccetera, eccetera, che consente di fatto la realizzazione di quei dati, di quegli obiettivi, pace, viola, sicurezza, equità, eccetera, eccetera, che ho detto prima. Questo vince storicamente il principe territoriale rispetto all'imperatore, perché è più adeguato a rispondere ai nuovi bisogni. Infatti, uno degli strumenti fondamentali con cui lo stesso Massimiliano tenta, e poi Ferdinando, insomma, tentano la riforma dell'impero, sono proprio le ordinanze di polizia. Ordinanze di polizia che vengono emanate con una successione impressionante, intensa, insomma, dalla fine del 400 alla metà del 600. E soprattutto nel corso del 500 noi abbiamo le grandi ordinanze, per esempio, del 1495, del 1512, del 1530, del 1548, del 1559, del 1577, un succedersi continuo di interventi legislativi, ma legislativi però in un senso molto più poliziesco, quindi legislativi esecutivi dell'imperatore. Ma l'imperatore emana le ordinanze e non le sa far rispettare, perché l'imperatore non ha la forza concreta per esigere il rispetto dell'ordinanza nei territori che sono di fatto già, che fanno di già capo alla sovranità del principe territoriale. E infatti gli stessi principi territoriali procedono a regolamentare il loro potere con ordinanze, non più imperiali ma territoriali, e queste ordinanze territoriali ricalcano spesso in modo pedissequo i contenuti delle ordinanze imperiali, ma hanno questa grossa differenza, che queste sono cogenti, perché il principe ha o sa comunque farsi, sa comunque costruirsi quella forza di coazione che consente il rispetto, no, dell'ordinanza. Quindi le grandi ordinanze territoriali questa volta del Baden, di Baviera, di Jülich, Berg, di Prussia, del Württemberg, di Stapelholm, di Sachsen-Gotha, del Hohenzollern e così via. Ed è su questo piano, tra l'altro, dei bellissimi lavori di Schmelzheide su questi argomenti qui, ed è su questo piano che c'è il trasferimento di potere dall'impero al principe, perché il principe esprime la unità politica, insomma l'occasione politica più adeguata per rispondere ai bisogni del sovrano. Il problema della polizia e delle ordinanze di polizia è importante perché mette in luce, secondo me nel modo più indicativo, il senso concreto che ha questo processo. Cioè, le norme di polizia, le ordinanze di polizia riguardano normalmente episodi minuti, dettagliati della vita associata, no? La preparazione del vino, della birra, la loro mescita, i vestiti, i commerci, i tessuti, le droghe, le farmacie, la lavorazione dell'oro, della lana, del cuoio, la manifattura in generale, i monopoli, i pesi, le misure, le monete, le regolamentazioni di tutti i generi di vagabondi che naturalmente, soprattutto durante il Seicento, insomma, dominano, no? Dal punto di vista sociale, direi quasi, la scena tedesca e così via. Tuttavia, al di là di questi contenuti così specifici e così apparentemente insignificanti, le ordinanze di polizia e tutta la legislazione di polizia presenta degli aspetti più significativi. In modo specifico, la polizia, le ordinanze di polizia spostano la tendenza, ecco, dell'intervento legislativo del principe da una dimensione di mera registrazione, di mera fotografia della situazione esistente, a una dimensione invece dinamica, precettiva, impositiva, organizzativa, che appunto segna la differenza tra il nuovo e il vecchio. Cioè, la nuova legislazione di polizia non si limita più a essere una semplice raccolta, una semplice elencazione dei privilegi, per esempio, di cui godevano i diversi ceti, di cui godevano le diverse situazioni sociali, anche quelle più moderne, le corporazioni, per esempio, ma va più in là, impone dei comportamenti. Non si limita a registrare, fissa delle linee di direzione, regola comportamenti difformi, li unifica, cioè dà delle indicazioni precise, nel senso che dicevo prima, della progettualità, nel senso dell'accentramento, nel senso dell'unificazione, nel senso della creazione di quella rete uniforme di rapporti civili che è necessaria per poter concretamente agire. Quindi questo è molto importante. Non solo, ma per poter far questo, evidentemente, la nuova legislazione di polizia è appunto caratterizzata da una prevalenza della dimensione di dovere rispetto alla dimensione di diritto. Cioè, la dimensione di polizia è più impositiva che non la precedente legislazione. Impone comportamenti e li sanziona. Quindi fa sorgere un meccanismo che è un meccanismo completamente diverso da quello proprio dell'antica società percepita, dove la situazione delle diversi centri, no? non tanto di potere, ma di vita civile, di vita comunitaria, è una situazione statica, è una situazione combinatoria, è una situazione di aggregazione quasi spontanea, in cui i confini di questi diversi ambiti si assestano vicendevolmente a seconda della situazione. Nella nuova realtà, che è quella dominata dalla polizia, dallo Stato, dal principe, eccetera, eccetera, prevale invece la dimensione del dovere, cioè prevale la, l'urgenza di fissare un obiettivo e di inventare gli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo. Quindi questi strumenti necessari saranno comportamenti obbligati e saranno anche naturalmente le forze necessarie per rendere obbligati questi comportamenti, per sanzionarli se invece deviano. Ecco, questo è molto importante. La dimensione del dovere. Anche qui richiamo un'altra volta l'importanza che la dimensione del dovere ha nell'esperienza prussiana, nell'esperienza tedesca riformata, perché il dovere è ovviamente un grosso referente di tipo ideologico, insomma, che viene fuori anche, comunque trova una grossa spinta dalla riforma. Tuttavia, va anche aggiunto che l'ordinanza, sì, la legislazione di polizia non è meramente, non è solo legislazione, è proprio per il fatto che c'è tutto l'aspetto coattivo, è legislazione più esecuzione. E qui si innesta un ulteriore elemento importantissimo di questa vicenda, cioè il fatto che via via che cresce questo intervento legislativo del principe nel campo della polizia, cresce anche una nuova rete, un nuovo apparato amministrativo, burocratico, che il principe è costretto a mettere insieme proprio per assicurarsi la realizzazione degli obiettivi che vengono fissati mediante la legislazione di polizia. E l'uso reale degli strumenti che vengono imposti attraverso le ordinanze di polizia per raggiungere quegli obiettivi. E questa burocrazia deve essere una burocrazia di tipo nuovo, proprio perché la burocrazia di tipo vecchio è una burocrazia che invece era legata necessariamente alla situazione signorile, alla situazione statica, alla situazione di non movimento, alla situazione di mera registrazione, di sopravvivenza. La nuova burocrazia deve essere invece una burocrazia agile, una burocrazia che non ha interessi, che non è padrona del proprio ufficio, una burocrazia svincolata dalle consuetudini radicate nell'antica società percepita. È una burocrazia che deve dipendere solo dal principe o prevalentemente dal principe. È una burocrazia che deve essere preparata professionalmente. È una burocrazia che deve avere delle qualità professionali. È la burocrazia, insomma, come la descrive Weber. È la burocrazia dello Stato moderno che nasce in questo modo. Nasce su espedienti, su aspetti specifici e concreti di questa vicenda. Nasce per esempio in modo specifico con collegamento ai due punti nodali che abbiamo visto fin dall'inizio dell'esperienza statale moderna in generale e anche tedesca. Cioè nasce in collegamento con il pilastro esercito e con il pilastro fisco, entrate. Noi abbiamo visto adesso che la codificazione della sovranità del principe territoriale alla fine, alla metà del 600 dopo la pace di Vestfalia, si ha col riconoscimento del diritto di alleanza del centro. Questo significa immediatamente il discorso dell'esercito, no? Dell'esercito stabile, un esercito che sia uno strumento continuo da usare in questo nuovo quadro politico che è il sistema internazionale degli Stati, che regola le proprie relazioni internazionali con la guerra, con Grozio, no? Con la pace di Grozio. Si ha anche la presentazione teorica di questa nuova realtà. La pace e la guerra sono gli strumenti essenziali con cui si regolano le relazioni internazionali nel nostro sistema degli Stati. Ogni singolo Stato, ogni singola entità politica che presume di essere Stato, di esercitare sovranità, in quel contesto deve poter utilizzare gli strumenti della pace e della guerra. L'esercito è lo strumento ovvio, ma fare impiantare un esercito non è cosa da ridere. Impiantare un esercito significa, per cominciare, avere i mezzi per mantenerlo. Ora, in Germania, in Prussia, si ha una progressione più o meno di questo tipo, anche se sono cifre assolutamente ridicole, perché poi ogni autore cita. Comunque, indicativamente, noi abbiamo che nel periodo di regno, insomma, dei principati, di governo, del grande elettore, cioè dal 1640 al 1688, c'è una progressione che va dall'esercito stabile passa da 8.000 a 23.000 persone, no? Il resergente, Federico Guglielmo, lo porta a 83.000, quindi nel 1640, nel 1630, negli anni 30 del 600, l'esercito è arrivato a 83.000. Con Federico il Grande arriviamo a un massimo di 195.000 persone. Ora, è vero che nel corso del 600 sembra che, nel corso del 700 sembra che la popolazione, la densità di popolazione in Prussia sia più che triplicata, quindi bisogna tenere conto di questi dati qui che sono significativi. Però bisogna anche tenere conto che nel 1640 più o meno la popolazione di tutti quanti i territori che fanno degli Hohenzollern, che fanno capo la Prussia, si aggira sui 2 milioni di persone. Quindi su 2 milioni di persone noi abbiamo qualcosa come 195.000 più tardi, comunque 100.000, 110.000 persone che compongono la città. Ora, sono dati effettivamente impressionanti, anche perché immediatamente sorge il problema di come il principe faccia a mantenere i ceti, evidentemente non i ceti, gli antichi ceti, cioè le strutture signorili che fino alla metà del 600 avevano contribuito in maniera decisiva ai bisogni, no, dello Stato, con i loro contributi fiscali, non sono sicuramente disposti a finanziare l'esercito del principe, perché l'esercito del principe è l'emblema e la bandiera della sua sovranità, della sua autonomia, del suo prepotere. E infatti, la seconda metà del 600, in corrispondenza con la nascita dell'esercito stabile, è il periodo della grande battaglia che che il grande elettore fa con i ceti. Battaglia fiscale. I ceti non vogliono rinunciare a quello che si chiama lo Steuerbewilligungsrecht, il diritto di approvazione dell'imposta, perché il diritto di approvazione dell'imposta è l'unica arma importantissima che hanno in mano per in cambio avere privilegi. D'altra parte, il principe non può, in base alle antiche consuetudini, imporre leggi senza il diritto di approvazione dell'imposta. Come fa? In Germania, per esempio, lo vedremo oggi, inventa un nuovo uso delle accise, delle accise, cioè delle imposte sul consumo. E queste imposte sul consumo hanno un successo trionfale, perché sono egualitarie, perché tutti sono sottoposti, meno teoricamente, la borghesia, quindi le città sono favorevoli a questo tipo di imposte piuttosto che alla vecchia contribuzione, e così via. C'è un boom pazzesco di queste, delle entrate e poi naturalmente in questo modo l'opposizione dei ceti dal punto di vista fiscale viene meno, quindi poi dopo il principe ha campo libero per agire. Però in collegamento, per esempio, con l'introduzione delle accise, nelle città tedesche a partire dall'ultimo quarto dell'Ottocento, del 600, cosa succede? Succede che il principe deve usare della gente che queste accise le riscuota. Cioè, chi usa? Usa una figura che non a caso si era consolidata proprio nell'esercito. Cioè la stessa identica figura che era servita a organizzare l'esercito, no? Poco prima, il commissario, che ancora adesso, no? Paolo, i commissari dell'esercito sono quelli che si occupano dell'organizzazione, cioè di tutto l'aspetto amministrativo. Io ero commissario quando ero nell'esercito, soprattutto nell'aviazione, no, anche te eri commissario. Allora, i commissari, i Kriegskommissare, i commissari di guerra, sono una figura meravigliosa che ha dato un grossissimo risultato, perché sono dei tecnici, sono dei funzionari che dipendono dal principe e che quindi non hanno coinvolgimenti di altro tipo con gli antichi interessi. Questa figura viene utilizzata dal principe anche per riscuotere delle imposte. Ma riscuotere delle imposte vuol dire in una città. Riscuotere delle imposte vuol dire in una città, e comunque vuol dire sicuramente per le città, per molte città prussiane, della fine del 600, del primo del 700, adagio, entrare a occuparsi di tutta quanta l'economia. Che regolare, imporre, gestire le imposte sulla produzione e sui consumi significa evidentemente fare politica economica. Vedremo poi qual è, questa è una ovvia un ovvio aspetto di tutta quanta la vicenda mercantilistica che segna l'esperienza prussiana in modo particolare, ma che è caratteristico di tutto l'Occidente europeo, no? Il collegamento strettissimo che c'è tra la dimensione fiscale e la dimensione produttiva, tra il benessere e il fisco. E oggi lo vedremo in qualche documento interessantissimo. Per cui questi storie da commissario, questa volta, il commissario delle imposte, da semplici gabellieri si trasformano in che cosa? Si trasformano in agenti di politica economica. E allora, però, intanto nasce un'organizzazione. Nasce un'organizzazione che, tanto per dire, finisce con dar luogo al General Commissariat nel 1612 e che nel 1613 e che poi dopo nel 1723 costituisce il modello per la grandissima innovazione istituzionale introdotta da Federico, io dico Federico era presente, con Federico Guglielmo, quello è soldato, Federico Guglielmo deve essere secondo, ma primo come re, il quale nel 1623 introduce il famoso General Directorium, che ha un nome lunghissimo, che adesso poi lo vediamo meglio di pomeriggio. Il General Directorium finisce con l'essere il ministero. È il ministero. È il oggi si dovrebbe dire il Consiglio dei Ministri, insomma, che viene introdotto da Federico Guglielmo come organo accentrato e unitario di gestione di tutta la polizia, cioè di tutto l'esecutivo. Io direi che adesso per quel che riguarda la polizia siamo a posto, insomma, se no non sappiamo più. Per quel che riguarda i lumi ancora, adesso siamo un po' nell'analitico, no? Posso dire due cose che, ecco, generale, aspettate che adesso arriva, tre, no, lo sappiamo meglio oggi. Per quel che riguarda invece, diciamo, i lumi, vorrei fare ancora qualche piccolissimo riferimento prima di entrare, proprio così, per dare delle indicazioni. La vicenda è una vicenda che in Germania, questa vicenda che vi ho detto, progettuale, pratica, concreta, anche in campo teorico, amministrativo e così via, è una vicenda che è abbastanza. Il primo esempio serio che si ha è quello che si chiama il testamento politico di Melchior von Osse, che viene, qui per caso. No, adesso qui per caso davvero. Il testamento politico di questo strano personaggio, consigliere segreto del principe Giorgio di Sassonia, che non è però l'elettore, è il cattolico dei due, insomma. Il testamento politico in cui questo Osse, che è un burocrate, dà dei consigli al suo principe su come deve organizzare la sua corte, su quali ufficiali deve avere, quali funzionari deve avere, in che modo, quali settori, ed è interessantissimo. Interessantissimo anche perché quello che ho qui in realtà non è l'edizione del 1555, ma è un'edizione del 1717 che viene ripresa da Tomasio, con lo stesso Tomasio Cristiano, che è grande esponente dell'illuminismo, del giusnaturalismo, eccetera. Nel 1717 pubblica il testamento Duca Augusto, non Giorgio, c'è confusione, Sassonia, pubblicato nel 1956, e lo pubblica zum Gebrauch des Thomasischen Auditori, cioè per uso dei propri studenti. Quindi nel 1617 Tomasio fa questo recupero qui. Nel frattempo cos'è successo? In quel secolo lì c'è stata una grossa produzione in questo senso, modestissima, però in campo giuridico, per esempio. C'è tutta una grossa produzione della famosa, insomma, per gli esperti giuristici e storia della letteratura, la letteratura giuridica nel campo delle imposte, con la produzione di trattati che precisano in continuazione sempre meglio quali devono essere le esatte caratteristiche di un sistema fiscale, i in una vicenda che ci stiamo avendo verso la razionalizzazione. Certamente piene di aporie, di ricordi di privilegi cettuali, tutte queste cose, però è già chiara l'avvertenza di questo, di questa faccenda del denaro come nervus rerum gerendarum, no? Che poi sarà uno dei motti di tutti gli Hohenzollern nei loro testamenti politici. E poi ci sono dei grossi richiami invece di tipo più toccato, insomma, più colto, no? Non so, basta pensare alla grande diffusione che ha in Germania nel 600 Lipsio, giusto Lipsio, no? Il neostoico olandese che sviluppa una etica estremamente funzionale, a questo punto è olandese, alle esigenze mercantili, borghesi, individuali della sua epoca. La grandissima rinomanza di cui gode in Germania nel 600 Coring, Hermann Coring, questo individuo prodigioso che si occupa a lungo della Prussia, che è corrispondente con il grande elettore, suo consigliere, anche se non sposa mai una causa, perché è un grandissimo intellettuale che presta i suoi servizi, poi vede chi lo paga di più, non lo so, comunque, ecco. Ma Coring elabora delle indicazioni metodologiche, è un poligrafo, scritto in centinaia di volumi, ma soprattutto a noi interessa l'aspetto metodologico che Coring mette in luce, no? Cioè il fatto di insistere in modo quasi esclusivo sul problema dell'adeguatezza allo scopo, della Zweckmäßigkeit, no? Il padre della moderna statistica, si dice che è Coring, il problema che lui porta avanti in continuazione è quello della necessità di reperire tutti i dati possibili su una situazione per poterla controllare. E questo nelle sue... c'è un'opera in cui in particolare, perché questo qui lo sa bene la Raffaella, quindi facciamo dire a lei poi dopo il pomeriggio. Subito dopo la fine del 600, sempre in Sassonia, ma in stretta corrispondenza di nuovo con la Prussia, c'è il contributo di un altro grande amministrativista, insomma, Ludwig Veit von Zeckendorf, no? Di cui oggi leggeremo un pezzettino anche, che scrive due libri, di cui uno molto importante, che è stato il Deutscher Fürstenstaat, stato principesco tedesco. E anche qui la descrizione dettagliata della necessaria struttura organizzativa e amministrativa della corte principesca è in realtà l'involucro in cui si celano importanti osservazioni sulla dimensione ottimale dello Stato, sul suo fine e la sua giustificazione, sulla composizione interna della classe di governo, e soprattutto sul rapporto esistente attraverso il nuovo e decisivo strumento della protezione professionale tra principe e ceri. E poi abbiamo i grandi teorici giusnaturalisti di cui vi ho detto, Pufendorf, Tomasio e Wolf, di cui vedremo oggi per esempio l'uso che fanno del concetto di felicità materiale. E poi più avanti abbiamo, dunque, in fondo, il cameralismo. Abbiamo il cameralismo che è, per quel che riguarda la Prussia, il... veramente un grosso fenomeno, insomma, nel senso che è la razionalizzazione scientifica che viene compiuta di tutto questo processo che era durato per i due secoli precedenti. Nel 1727 il solito Federico Guglielmo fonda due cattedre di cameralistica, una a Halle e una a Frankfurt, an der Oder. Due cattedre di cameralistica. E vedremo oggi appunto anche lì che cos'è la cameralistica, ma è sicuramente il tentativo di dare veste scientifica, rigorosa, chiusa, sistematica a una serie di nozioni, di atteggiamenti, di regole che fino allora erano state sviluppate solo nel senso della precettistica, nel senso, e invece da qui in poi diventano strutturali. E la cameralistica avrà una vita da una parte lunghissima, perché ancora oggi si coltiva in alcuni paesi, soprattutto della Germania, però come contabilità, insomma, ha seguito lo stesso processo della polizia, capite, no? Che dicevo prima, insomma. Però ha avuto invece una vita intensa, intensissima e molto breve in Prussia, fin verso il 1750, quando da questo coagulo di scienza dello Stato, in corrispondenza con lo sviluppo delle collezioni materiali, con le nuove esigenze sempre più raffinate che emergono da questo sviluppo, Questo coagulo si spezza in una serie di cose che sono le moderne scienze sociali. Perché si spezza nell'economia, si spezza nel diritto pubblico, si spezza nella scienza dell'amministrazione, si spezza nella scienza delle finanze. Quindi è veramente per me una riuscita, l'ho studiato, quindi sono particolarmente legato, ma credo che sia veramente interessante. E adesso io avrei finito, però vorrei, siccome c'ho anche delle manie di tipo un po' sentimentale, concludere con la conclusione di questa roba che ho cercato di riassumere, che dovrebbe essere l'introduzione di un libretto che sto preparando per la scuola aperta di Sansoli, proprio intitolato Pulizia fra Pulizia e Lui. Quindi direi, per concludere è necessario tornare allo schema interpretativo con cui si è aperta l'introduzione. Il grande problema storico del nostro secolo di oggi, riconducibile a una tragica divaricazione identificazione tra individuo soggetto e potere oggetto, esprimentesi simbolicamente sul piano politico costituzionale nell'orrore fascista e su quello filosofico ideologico in una concezione del mondo in cui è ancora presente un'opzione individualistica insieme però all'intuizione dell'individuo come essere sopraffatto dall'angoscia, non trova spiegazione sufficiente al suo interno, neppure mediante il ricorso alle più documentate denunce storico-materialistiche della carica di alienazione e di sfruttamento propria del modo di produzione capitalista. Il modello oggi in crisi risponde in effetti a una struttura assai composita, di cui è importante scoprire la genesi, perché solo in tal modo si è in grado di determinarne la devianza e di denunciarne l'astrattezza, cause principali della sua crisi. Basterebbe ovviamente il riferimento alla teoria critica per accomunare in una denuncia dell'illuminismo tutte le implicazioni negative di una ragione, di un progresso, di una cultura separate in nome del dominio, ma esse stesse perché separate oggetto finale di un dominio cieco. Ma il campo della nostra ricerca è così limitato che richiami di questo tipo sono fuori luogo. Anche se segni evidenti di separazione li abbiamo continuamente rintracciati, anche qui nel continuo referente pratico, amministrativo, tecnico della teoria, della prassi politica, dei lumi, della polizia, della Prussia. E anche se in continuazione abbiamo definito ideologica la pretesa riuscita di rifondare la globalità di quelle separazioni in una dimensione faticosamente ma effettivamente scientifica. Ciò che si può dire piuttosto che l'esperimento prussiano, studiato nei contorni spiccatamente politici che lo rendono caratteristico sia come fenomeno autonomo che come vicenda rappresentativa di un più ampio processo, comune a tutto l'Occidente moderno, cioè nel peculiare rapporto fra polizia e lumi che ne ha guidato lo sviluppo storico, dimostra a sufficienza quanto lontane siano le origini della crisi di oggi. Esse risalgono al momento in cui la separazione fra sovrastruttura istituzionale e ideologica e struttura materiale umana viene addirittura eretta a scienza e, in nome del controllo del dominio, si contrappone artificialmente l'individuo, sede della libertà e della filosofia, allo Stato, sede dell'autorità e della scienza. Il secondo, con i suoi attributi, è certo al servizio del primo. Ma a trionfare è la globalità presunta, ideologia, dell'autorità e della scienza. E non basterà l'interrogativo kantiano, no, bassista auf Klärung, o il sogno garantista liberale a spezzarne il dominio. Per loro tramite, anzi, la separazione si approfondirà ancor più fino a diventare oggettivamente motivo di crisi. Quindi questo qui, insomma, io poi non mi occupo di cose noiosissime. Alla fine sempre bisogno di metterci. Bollo non è un bollo. Grazie. Allora ci riprendiamo alle tre precise i lavori con la lettura di documenti. Adesso direi a tutta la discussione adesso più grande. Da questi documenti ne ho ricavato una piccola selezione. Ci sono una, non so, saranno una quindicina, una dozzina di documenti, che non è che siano però documenti particolarmente significativi da farne l'esegesi, insomma, no, sono così, insomma, indicativi di tutto quello che ho cercato di dire stamattina. Sono numerati in ordine non progressivo di documento, ma semplicemente progressivo di pagina, in cima a sinistra, in modo che il riferimento possa essere immediato. Allora, io direi che molto rapidamente cercherei di illustrarvi, no, tutte queste cose proprio per brevi cenni, leggendo qui e là quello che è interessante per mettere in luce azioni che voglio sottolineare, in modo poi dopo da lasciare anche magari una mezz'oretta per fare un po' di discussione. discussione, perché sennò che si viene arrivare. Allora, il primo documento che abbiamo davanti, quello della pagina 1, è la Geheime Ratsordnung del 1651, cioè l'ordinanza con cui Federico Guglielmo, il grande lettore, razionalizza il consiglio segreto che aveva in realtà una vita già abbastanza lunga, di circa mezzo secolo, ma che in questo momento viene razionalizzato secondo alcuni principi che sono molto importanti, perché sono i principi propri dello Stato, del Gesamtstaat, dello Stato centrato, dello Stato unitario. Infatti da questa ordinanza si possono già riscontrare quelli che sono gli inizi del cosiddetto Kabinettsregierung, del governo di gabinetto, cioè del governo gestito dal principe attraverso uffici specializzati, ma con le redini di tutti quanti gli affari, della gestione di tutti quanti gli affari, strettamente tenuti nelle sue mani. Da questo documento risultano alcuni elementi che saranno caratteristici dell'organizzazione burocratica di tutto lo Stato moderno, che sono quelli della competenza dei funzionari che fanno parte di questo organo, della collegialità e della necessità dell'informazione scritta, che è anche un altro carattere decisivo per la moderna burocrazia. Allora, infatti, se si legge la prima pagina è interessante perché comincia a dire: poiché da tempo abbiamo osservato, scusatemi, innanzitutto sono tutte tradotte perché appunto servono per questo uso didattico molto banale, insomma. Sono tradotte probabilmente anche male, e perché va ancora rivista la traduzione, non sono battute perfettamente, ci sono un'infinità di refugi, cioè di errori di latinografia, quindi avete pazienza, però ci si capisce lo stesso. Allora, pagina 1. Poiché da tempo abbiamo osservato che i nostri affari segreti vengono trattati con difficoltà e lentezza, e molti aspetti vengono trascurati, poiché essi non sono divisi fra i nostri consiglieri, ma attribuiti a caso a questo o a quello, con la conseguente disposizione ordinanza stabiliamo, ordiniamo e disponiamo che d'ora in poi i nostri consiglieri segreti trattino i nostri affari in base alla giusta distribuzione dei medesimi qui tracciata, e li portino a compimento in modo che colui al quale di pratica tocca subito la sigli, la esamini diligentemente, evidenzi i punti essenziali su cui dà consiglio e ci riferisca poi devotamente. E qualora, quindi capite che qui c'è già tutto il problema della divisione, quindi della competenza, della collegialità, dell'informazione scritta e del riporto al principe, il quale principe, qualora noi non abbiamo nulla da osservare, no? Allora con la nostra libera approvazione, il consigliere incaricato la comunichi agli altri consiglieri segreti, con legalità, perché ci riflettano e faccia poi il consiglio proposte chiare e ordinate, poiché egli conosce meglio di tutti gli altri competenza, abbia il primo voto. Poi il nostro segretario, in sua assenza, il proponente stesso, raccoglierà gli altri voti, annoterà la maggioranza ed esprimerà di nuovo il suo parere. In seguito noi, o subito, oppure in seguito ancora segretamente, come ci sembrerà più opportuno, prenderemo la decisione e la comunicheremo. Per me questo è molto significativo, perché da una parte viene ribadito appunto il fatto dell'accentramento del potere nelle mani del sovrano, però l'istruzione della pratica viene organizzata in modo estremamente tecnico e dettagliato attraverso il principio che ho detto prima della competenza. E così. Precisa, tanto per non lasciare dei dubbi, Federico, per giungere in medio a questo scopo vogliamo essere noi ad aprire tutta la posta che giunge al nostro gabinetto, per poi convocare l'uno o l'altro dei nostri consiglieri e consegnare a ciascuno le pratiche di sua competenza. Quindi, pratica. Oltre a ciò, ciascun consigliere deve ricevere da noi osservare le direttive nelle questioni di Stato di sua competenza, e nessuno deve invadere il campo altrui, ma deve solo preoccuparsi di istruire con ogni cura e di portare ad opera per il nostro meglio gli affari a due tribunali. Ecco, questo è il 1651, a 3 anni dalla fine della pace, della guerra dei 30 anni. Il processo di accentramento va in questa direzione, ma le resistenze sono molte. I ceti continuano a essere maniapassi di Heimerat nel Consiglio Segreto, no? Soprattutto anche se incominciano ad esserci delle presenze di Gelehrte, di dotti, cioè di esperti, no? Però le resistenze sono molte. Vi ho già detto stamattina che è decisivo il problema delle accise, di queste imposte. Ecco. La prima ordinanza sulle imposte che viene emanata nel senso moderno, insomma, è del 1667, sempre ad opera di questo grande lettore. Però questa ordinanza viene ribadita nel 1680 con un'ordinanza successiva che riguarda le città della Marca di Brandeburgo. La storia è un tazzise ornum in den Städten der Kur und Mark Brandenburg. Questo qui è importante l'inizio, perché c'è anche il collegamento, adesso basta leggere, pagina 2. Noi Federico Guglielmo rendiamo noto a tutti, e soprattutto ai diretti interessati, che poiché le nostre città del Brandeburgo sono state quasi del tutto snervate, in seguito alla guerra, ancora, hanno perso buona parte dei loro abitanti e ogni commercio e fonte di nutrimento, e si trovano in una condizione desolata, non solo a causa della lunga guerra tedesca, ma anche perché noi in seguito, a causa di insorgenti, congiunture pericolose e guerre nelle vicinanze del nostro paese, dentro e fuori l'impero romano, siamo stati costretti a costituire un forte esercito. Ecco qui il problema. Noi siamo stati costretti a costituire un forte esercito per la difesa del nostro Stato e dei nostri poveri sudditi. Poiché per sentimento patriottico e di compassione, di fronte all'agonia delle nostre città, fin quando durerà il nostro attuale stato di guerra, siamo mossi a concedere un condono fiscale, ma anche a rivedere gli attuali carichi della contribuzione. La contribuzione è la contribuzione, cioè quella forma di esazione fiscale che in realtà escludeva del tutto i nobili, gravava esclusivamente invece sui non nobili, mediante tutto un meccanismo complicato, adesso è inutile stare, a mezzo di commissari sono precisamente proposti, in modo da giungere ad una uguaglianza proporzionale ed equa. Questo è un elemento importante che viene sempre presentato a sostegno delle azioni. Ma anche da evitare che, in modo da evitare che, come è successo finora, l'attuale contingente mensile della tassazione ordinaria, cioè la contribuzione, non sia ricavato solo dai beni immobili e dal patrimonio. Vogliamo introdurre, per mezzo di questa ordinanza, sollevazione dei poveri, un fondamento più giusto delle future imposte, in particolare un'accisa sui consumi del vino, della birra, dei generi alimentari e delle altre merci che sono consumate e prodotte nelle città e nelle campagne dell'elettorato. Dopo c'è un elenco pazzesco, di non so quanti generi, perché mi manca, andare a guardare, alimentari e attività economiche che cadono sotto le accise. Il che evidentemente, come ho già detto anche stamattina, è anche in qualche misura un meccanismo che consente di impiantare, di anticipare delle operazioni di politica economica, perché chiaramente si cominciano a privilegiare, no, determinati settori piuttosto che certi altri, si fanno degli interventi, perché poi i tassi, insomma, come si chiama, variano enormemente secondo i generi alimentari, quindi c'è tutta una grossa possibilità di azione in questa direzione qui. Poi, come ho detto stamattina, sarà utilizzata soprattutto dai commissari delle imposte locali, cittadini, volta per volta. La terza ordinanza che ho qui è l'istruzione, è invece praticamente un testamento politico. Io preferisco leggere di fila, anche se sono un po' mischiate, perché è più, dà più l'idea della complessità, della globalità. Questo qui è praticamente un testamento politico di Lorenzoni, ma come in realtà molti principi dell'epoca avevano l'abitudine, insomma, di pubblicare, no? Di scrivere, di redigere così testamenti politici, che erano poi, questo qui in pratica si chiama istruzione del re Federico Guglielmo I per il suo successore, cioè sono veramente delle indicazioni, specie di resoconti, no? Ma anche di programmi che principe dà al suo successore su quelli che sono i grandi orientamenti della politica dello Stato. Questo riguarda le manifatture, è l'istruzione del Federico Guglielmo I, del suo successore, che poi sarà Federico il Grande, pubblicata però nel 1722, quindi 18 anni prima che questo muore, insomma. Quindi, ecco. E riguarda le manifatture, e qui vabbè, sono cose banali, ovvie, perché ci troviamo all'interno del stamattina io non ho avuto tempo di accennare, di dire qualcosa di più serio sul sistema mercantilistico. Ci troviamo all'interno di questo sistema, insomma, no? Quindi sono cose nuove. Lui dice, pagina 3, poiché le manifatture costituiscono il vero nervus rerum gerundarum di un paese e di un principe, il mio successore deve cercare di introdurle in Prussia e in tutte le altre province in cui non esistano, soprattutto manifatture per la lana. Di conseguenza il mio successore deve visitare tutti gli articoli. C'è il secondo aspetto, introdurre manifatture e impedire l'importazione di merci straniere dall'estero, no? Di conseguenza il mio successore deve vietare tutti gli articoli di lana stranieri in Prussia e nelle altre province. Egli deve anche mantenere il mio editto secondo cui è proibito esportare, pena la morte, lana non lavorata dalle sue province. Tipica operazione mercantilistica. Non si importano beni lavorati, non si esporta materia prima. Si può importare materia prima e si possono esportare beni lavorati, l'operazione, e quindi le manifatture che sono la cerniera di questo meccanismo qui. Egli deve proteggere le manifatture in tutte le province in modo da aumentare le sue entrate e da portare il paese e la popolazione a una condizione di floridezza. E qui si innesta immediatamente il problema dei francesi, no? Già nel 1685 il grande elettore aveva promulgato un editto, il seguito alla regola di Nantes, con cui facilita enormemente l'ingresso dei rifugiati ugonotti in Prussia, in Brandeburgo. Quali ugonotti francesi portano capitale e portano soprattutto grande perizia manifatturiera e servono enormemente per sviluppare, sono proprio la base tecnica e sociale per lo sviluppo della manifattura in e questo l'editto del 1685 sarà continuamente richiamato fino a Federico il Grande, che continuerà questa operazione, no? Addirittura anche nei confronti dell'Olanda, e vedremo, credo che alla fine ci sarà anche lo troveremo ancora. Ma già qui nel 22 questo ribadisce, cioè, per quanto concerne i francesi o i rifugiati, il mio successore deve confermare i privilegi concessi a Federico Guglielmo, 1785. Infatti i francesi sono gente molto industriosa che ha saputo rendere il nostro paese, soprattutto le città, capaci di manifatture. In precedenza noi lasciavamo uscire denaro dal paese, ora invece ne entra dall'estero. Quindi avere manifatture può essere considerato una vera miniera, e in ciò consiste il vero nervus rerum gerendarum, è il benessere del paese. Infatti un paese senza manifatture è come un corpo umano senza vite, cioè un paese morto. Per questa ragione io prego il mio caro successore di conservare manifatture, di proteggerle, di impiantarne continuamente di nuove, di espanderle in tutto il paese, soprattutto in Prussia, e di mantenere gli editti da noi emanati, secondo cui non si possono importare articoli di lana, eccetera, eccetera, e gli abitanti del nostro paese di qualsiasi ceto non debbano vestirsi con abiti di lana stranieri, che sono anzi obbligati a portare abiti fabbricati nel paese. Egli dovrà essere molto severo su ciò e dare agli stessi buon esempio. Allora vedrà che il paese, soprattutto le città, fioriranno e le casse delle accise aumenteranno le loro entrate. Tutto si tiene ancora una volta. L'istruzione di Federico II il Grande, così segreto per le finanze FESH. Questa è successiva, riguarda sempre le manifatture, ed è l'11 agosto del 1952, ed è un rimprovero durissimo che Federico il Grande fa al consigliere segreto FESH, il quale, a cui aveva mandato i rapporti della Camera sul problema delle manifatture, e questa è la risposta che andava tutto bene, no? Federico il Grande si arrabbia enormemente perché lui stesso è andato a leggere i rapporti, se li ha studiati di notte, e ha scoperto che invece non va bene per niente. E quindi è durissimo, perché dice... voi siete dell'opinione che al di fuori delle poche fabbriche da voi elencate, che sono in sé molto poco necessarie, non ne abbiamo bisogno di altri in questo paese, ma ne abbiamo più che sufficienza. Invece non posso trattenere dall'informare che devo concludere che voi avete compiuto solo un esame molto superficiale degli estratti dei bilanci inviati dagli uffici camerali, relativamente all'importazione e esposizione. Poi va avanti in modo estremamente duro, per spiegargli che rifaccia il lavoro, gli rimanda, quindi dice io vi rimando poi... gli atti, ristudiati bene, capite quello che voglio dire io, ecco qui la pagina successiva, pagina 5, ritengo perciò che voi dobbiate analizzare nuovamente gli estratti che vi vengono rinviati, con maggiore attenzione, e che stendiate un rapporto conseguente. E poi gli spiega, dovete prestare particolare attenzione al problema di quali fabbriche sono particolarmente vantaggiose per ciascuna provincia, e nel caso che ve ne siano troppe dello stesso tipo in qualche provincia, in quel caso debbano essere spostati in un'altra, dove non ve ne siano. Poi vi richiama, e poi dopo c'è le ultime 5 righe sono molto interessanti dal punto di vista dell'organizzazione, perché nel frattempo Federico il Grande ha operato l'unica sua vera innovazione istituzionale, cioè ha modificato la struttura interna di quel famoso General Directorium che dicevo stamattina che era stato impiantato nel 1723, ecco, e che aveva una prima, la sua organizzazione interna iniziale era non per affari, non per materie, ma era per territori, no? Invece Federico il Grande introduce, utilizzando già una prassi che si era un po' realizzata, insomma, distingue, lo vedremo dopo, per materie, quindi crea dei propri ministeri, insomma, no? Tra cui c'è anche un quinto ministero che è quello delle manifatture. Allora in queste cinque, e c'è però, voi capite, ogni volta che si fanno delle razionalizzazioni di questo tipo ci sono dei problemi di conflitti fra diversi organi, no? E quindi qui c'è il problema del conflitto fra l'eventuale dipartimento per le manifatture e le camere, e la camera centrale, che era quella che appunto aveva mandato gli atti su cui questo FESH non aveva fatto l'esame giusto. E allora Federico Grande entra nel merito qui, ed è molto interessante. Voi vi richiamate in verità l'ordinanza del presidente camerale, in base a cui la riduzione delle fabbriche è affare della camera. Ma se considerate di quanti differenti problemi è gravato il presidente, che ha già molto da fare, no? Mentre il quinto dipartimento non ha altri problemi, vedrete da solo che è il suo preciso dovere del dipartimento lavorare al problema con ogni attenzione. Quindi anche qui è molto chiaro. Dopo ci abbiamo, questa qui è l'istruzione appunto, pagina 6, per appunto il finanza diretto, il generale Oberfinanzkriegs und Domänen Direktorium, generale direttore in realtà è il direttorio generale superiore per le finanze, la guerra e il demanio, come titolo generale, istituito nel 1923. E qui c'è un lungo elenco che io però, se riesco, vorrei eliminare. Qui vengono ribaditi i temi dell'accentramento, della professionalità e della impersonalità del comando, e viene invece portato l'accento sul problema delle imposte, del benessere delle manifatture. Si insiste di nuovo sulle informazioni scritte sul governo personale. Insomma, leggo un po' lungo. Tutto questo discorso, per esempio, non so, Federico comincia a dire, dice anche che, Guglielmo dice anche che i membri di questo generale direttorio non devono essere abitanti, cioè devono essere suoi sudditi, solo eccezionalmente possono essere stranieri. Però invece i membri delle camere, cioè degli uffici locali, no, del generale direttorio, non devono essere abitanti dei singoli distretti su cui opera la camera, tutto per impedire qualsiasi tipo di connivenza e cose di questo genere. Insiste sulla tematica dell'esperienza tecnica. E insiste, pagina per esempio appunto 7, l'ultimo paragrafo che capisce il settimo, sul mantenimento del benessere della popolazione soggetta. Ciascuno sa quanto importante sia per qualsiasi paese che le condizioni della popolazione soggetta siano soddisfacenti e quali dannose conseguenze possono sorgere quando essa invece rovinata da un cattivo sistema economico e da pesi eccessivi, ridotta allo stato in cui i suoi membri sono incapaci di adempiere in tutto o in parte i loro obblighi ordinari nei confronti del loro signore. Il direttorio deve perciò prestare attenzione a mantenere con grande diligenza e applicazione il benessere della nostra popolazione soggetta. Qui cominciamo a entrare nel merito di quel problema di stamattina, di collegamento tra benessere della popolazione e solidezza dello Stato, solidità dello Stato, no? Problema strettissimo, che è veramente difficile. Se c'è un caso in cui si deve usare il termine dialettico, è questo qui, perché c'è veramente un continuo riciclaggio, no? Tra l'aspetto del benessere individuale quasi e l'aspetto della prosperità dello Stato. Che è stato pronto vuol dire stato forte. Stato forte vuol dire lo Stato che sa garantire sicurezza, ordine e pace, che sono le premesse perché uno possa lavorare, guadagnare, arricchirsi. Se si arricchisce, paga più imposte, quindi arricchisce più lo Stato, e così via. È veramente un circolo meraviglioso. Ovvio, ma meraviglioso. E che funziona, poi, che di fatto funziona. Per lo Stato e per la borghesia che si arricchisce, di fatto. Quindi il benessere della popolazione soggetta affinché essa possa essere mantenuta in uno stato florido e prospero, e quindi nella tassa militare di quei due signori siano fissati a livelli insopportabili. Cioè, attenzione. Dopo, invece, qui ce n'è un altro, dove è qui? Reglement verso gli Zizac. Ecco, entriamo nel 1749. Dicevo prima, l'unico intervento istituzionale che ha fatto Federico Guglielmo era quello di regolamentare la struttura interna del generale direttorio. Non è vero, in realtà Federico il Grande ha fatto è stato il padre di una grossissima operazione nel campo della giustizia. Tutta la riforma della giustizia è stata fatta da Federico il Grande, soprattutto per merito di Cocceio, che lui mette a capo proprio del Geheimerat per questo scopo, e poi per merito di Svarez, che sarà quello che compie la seconda parte di questa poderosa operazione, che è la parte proprio trionfale, insomma, che è l'Allgemeines Landrecht, cioè il diritto territoriale generale, che è la prima codificazione moderna, insomma, no? A base giusnaturalistica, però con dei precisissimi riscontri di insomma, all'interno di tutta la tematica illuministica che anche in Italia evidentemente in Lombardia ha avuto uno dei grandissimi successi, insomma. Infatti si dice che Cocceio fosse ispirato da Beccaria per dire nella sua riforma, della riforma della giustizia, così come è certo che anche i discorsi che fa Svarez sul Germanes Landrecht hanno questo tipo qui di cose dietro. Però Federico il Grande questo sicuramente l'ha fatto, e in modo particolare per quel che riguarda questa istruzione, questo regolamento è intitolato, c'è scritto anche, io lo traduco sempre, regolamento su quali questioni giudiziarie restino di competenza delle Camere e quali appartengono invece ai collegi di giustizia del governo. Questo fatto qui è importantissimo per l'ultimo paragrafo, perché nell'ultimo paragrafo Federico praticamente spiega, teorizza il senso, uno dei significati più profondi secondo me dello Stato moderno, cioè la contrapposizione fra società civile e Stato, fra privato e pubblico. E lui dice, di conseguenza viene qui stabilito che di regola tutte le questioni processuali che riguardano l'interesse privato, ovvero i diritti delle parti interessate, devono essere discusse e decise dai collegi di giustizia ordinari di ciascun luogo, cioè tribunali civili, no? Interesse privato. Devono essere invece attribuite alla competenza delle camere di guerra e demaniali, quindi potremmo dire un tribunale speciale, insomma, che poi se la vedremo è il tribunale amministrativo. Principalmente le questioni inerenti alle entrate regie e ai demani e quelle che riguardano lo stato economico e politico, e in particolare l'interesse pubblico. Cioè, qui, secondo me, noi siamo già di fronte alla metà del Settecento, è chiaro che in Francia e in Inghilterra queste cose sono successe anche prima, cioè non è una questione, qui non è che voglio dire che le ha scoperte, interessa per la Prussia il discorso, però mi interessa anche far vedere che in Prussia, per le circostanze che siamo stamattina, il discorso viene fuori anche in modo particolarmente pulito, particolarmente, insomma, chiuso, no? Qui c'è proprio il riconoscimento palese a livello applicativo, cioè a livello della giustizia, di queste due dimensioni che ormai si sono definite. Lo Stato, la nuova realtà costituzionale moderna si è compiuta nelle sue due componenti, la società civile e lo Stato. La società civile come sede di interessi privati, lo Stato come sede di interesse pubblico, devono parlare della forza. Questo è il punto. E da qui in poi che succederà il pasticcio, cioè da quando la società civile, sede di interessi privati, progressivamente cercherà di corrodere, di smangiare i confini e la struttura importante dello Stato. Per questo qui che avevo messo questa cosa, no? Ecco, qui adesso abbiamo stranamente, che è stato qui, insomma, il documento relativo a Christian Wolff, però forse non è mica ordinato, c'è stato forse qualche... Comunque, vabbè, no, perché Tommaso e Puffer non li ho messi. Quindi, della triade appunto giusnaturalistica, Pufendorf fine 600, Tomasio tra 6 e 700 e Wolff prima metà del 700, ho scelto solo Wolff perché è quello che chiude tutto. Wolff è un grande illuminista, è allievo di Leibniz, quindi volgarizza Leibniz, eccetera, ma soprattutto, ha scritto anche lui un poligrafo inesauribile, soprattutto quello che interessa per noi è cercare di capire quei meccanismi che dicevo prima, cioè lui esalta due problemi, la materialità della felicità, l'importanza che questa felicità materiale ha per la struttura politica, nel senso che la felicità materiale è un diritto del suddito, però è anche un dovere del suddito. Perché è naturale, perché è un'esigenza naturale. Quindi, essendo un'esigenza naturale, il suddito ha il dovere di adeguarsi. Avendo il dovere di adeguarsi, ha il diritto di pretendere dallo Stato le provvidenze necessarie perché questo avvenga. Quindi lo Stato ha il dovere di intervenire in questa direzione, ma ha anche il diritto di pretendere che il suddito faccia quello che è necessario perché esso Stato possa soddisfare quel dovere lì. Quindi il meccanismo dei diritti e dei doveri che regge tutta la costruzione della legittimazione del potere assoluto del principe tedesco in Wolff è strettissimo. Qui si possono leggere da pagina 10 in poi quasi esclusivamente i paragrafi, le rubriche, insomma, dei paragrafi, no? La legge di 284, la legge di natura ci dà diritto a tutto ciò che è necessario per raggiungere, conservare e aumentare la felicità. Poi sotto questo principio è importantissimo, tanto che ogni diritto che per natura compete agli uomini dovrebbe essere dedotto da qui. Nel momento che dovremmo far derivare l'intera dottrina di natura dalla nostra felicità. Paragrafo 383, l'uomo ha diritto a quelle cose che servono per mangiare e bere o possono nutrire il corpo. 416. L'uomo ha diritto a quelle cose che stanno in luogo di medicamenti. 458. L'uomo ha diritto a tutte quelle cose che servono a confezionare vestiti e a tutti gli atti necessari per confezionare i medesimi. 461. L'uomo ha diritto a tutte quelle cose che sono necessarie a costruire case e anche tutti gli atti necessari per costruirle. 68. All'uomo compete il diritto a tutto ciò che in qualunque modo renda la vita comoda e a tutti gli atti a ciò necessario. L'uomo è obbligato infatti a trascorrere la vita comodamente. La legge di natura ci dà perciò diritto alle cose senza le quali non può essere soddisfatta l'obbligazione naturale. Adesso deriva che l'uomo ha diritto a tutte quelle cose che rende in qualche modo la vita comoda e a tutti gli atti ciò necessario. Poi ancora, l'uomo appartiene il diritto a tutte quelle cose che servono a trascorrere piacevolmente la vita. Poi l'uomo ha diritto per le cose che servono a conservare la bellezza naturale, quindi cosmetici, queste cose qui, le parrucche, ma poi dopo. L'uomo ha diritto a ciò che serve per la bellezza artificiale, le dentiere, eccetera, e a quegli altri che sono richiesti per la medesima. All'uomo compete il diritto a quelle cose che servono per preparare ornamenti e a quegli altri per i quali sono preparati e che il loro uso richiede. Gli ornamenti del corpo, e gli ornamenti infatti servono per il corpo, pertanto il resto del corpo. L'uomo ha quindi diritto alle cose che servono per preparare ornamenti e così via. Cioè, capite, adesso questo qui è fatto in modo provocatorio per dare un'idea della cosa, ma da questo intervento analitico, no, di Wolff, di faccende intime, anche eccetera, viene fuori dalla giustificazione del potere assoluto del principe e del dovere del suddito di adeguarsi a quello. E anche però vengono fuori delle indicazioni di politica al principe, insomma. E allora proprio si ha questa impressione di globalità che, e questa è la peculiarità della società tedesca, effettivamente per molte parti è stata perseguita, insomma, è stata agganciata. Qui ci sono due paginette, la tredicesima e la quattordicesima, che sarebbero la summa della cameralistica e vengono tratti da un autore che è, secondo me, è l'esponente più alto della cameralistica in senso stretto e che appunto è Zinke, in questa opera che è intitolata Manuale per un'introduzione alle scienze camerali, insomma, Leipzig 1742-43. Questo è interessante per tutto quello che dicevo prima dell'aggregazione nella cameralistica delle scienze dello Stato. Un principe, in quanto capo e signore di una società civile, consiste questo in una persona fisico-morale, per il mantenimento sia della sua sovranità, della sua casa, della sua persona, sia del bene comune dello Stato, che per lo più consiste in una vita sicura e tranquilla, sia di se stesso che dei suoi sudditi, deve affrontare, custodire e a tal scopo, correttamente, secondo intelligenza, impiegare un patrimonio a tutto ciò proporzionale. Quanto più un principe sarà in grado di perseguire, in osservanza di questo dovere, il benessere e il miglior livello di vita suo e dei suoi sudditi, tanto più grande sarà egli stesso. In ciò infatti consiste la vera ragione della sua grandezza esterna, in quanto principe. Ma quanto più egli diviene grande, tanto maggiore deve essere il patrimonio di cui dispone, tanto maggiore la sua cura nell'affrontarlo, custodirlo e impiegarlo. La grandezza e la ricchezza del patrimonio di un principe consiste in realtà in uno stabile, ecco questo è il processo importante, in uno stabile processo di entrata e di uscita che si compie tra lui come capo e le sue membri. Così che sorge la conclusione naturale, per cui quanto più viene aumentato il patrimonio del principe, tanto più vengono accresciuti anche questi scambi e aumenta il vantaggio delle membra, per modo che non vi può mai essere contraddizione fra loro. Il principe ha perciò un bisogno indispensabile, in proporzione con l'ampiezza del suo paese e sua popolazione, di gente che per poter agire sotto la sua alta direzione ed autorità in questi importanti settori del suo ufficio, per realizzare le sue vedute, per poterlo assistere con fedeltà e diligenza a fondo, mantenendosi in ordine e subordinazione ai suoi confronti, abbia un'indispensabile e differenziata conoscenza, preparazione scientifica, intelligenza, esperienza e abilità. In poche parole, un governante ha bisogno di esperti e abili cameralisti. Cioè, quando nel 1627 il grande il re soldato inventa le cattedre, istituisce le cattedre cameralistiche, non è che le istituisce per amore della scienza solo. Le istituisce perché non ne può più dei giuristi, perché i giuristi non gli servono più, perché i giuristi perdono il loro tempo in questioni causidiche che non interessano gli affari dello Stato, perché sono nocivi, sono diseconomici e così via, perché in realtà la sua amministrazione ha bisogno di, come dice qui, echten cameralisten, di abili cameralisti, di esperti cameralisti, e le introduce apposta, si stanno recate, si scrivono i libri e si prepara la gente, e questa gente viene poi impiegata negli uffici del principe per questo scopo preciso. Quindi poi c'è il mio commento, e poi dopo, da tutto ciò discende l'affermazione dell'unità logica della tematica cameralistica, ormai definitivamente sottratta all'ambiguo campo dell'esperienza e dotata di coerente strutturazione teorica. La scienza camerale è, qui c'è la definizione, una scienza teorica e pratica rivolta sia ad individuare, migliorare e introdurre buone leggi ed istituti di polizia, in base alla natura, allo stato e alle condizioni economiche di un paese, sia anche a fondare, mantenere, aumentare ed amministrare secondo saggezza, intelligenza, giustizia e abilità, per il bene dello Stato e del suo governo, secondo speciali regole e massime discendenti dal complesso dei diritti e doveri di un principe, la soddisfazione dei bisogni, la tranquillità e la ricchezza di un paese, e attraverso ciò anche il patrimonio pubblico necessario allo Stato e al principe. Però queste, ripeto, non sono parole vuote, perché poi ci sono altre 500 pagine che sono tutte il dettaglio di queste cose qui, insomma, cioè le esemplificazioni di come si fa a fare questo. Cioè, non sono delle dichiarazioni di principio. Ecco, va bene, questo qui è inutile ripeterlo, pagina 15, perché è il discorso, cioè questo qui sarebbe il gruppo della tolleranza, pagina 15, 16 e 17. Pagina 15 è quello che vi dicevo prima del 1685, editto sui diritti, privilegi e altri benefici che Sua Altezza Elettorale Vandenburgo aveva giustamente deciso di concedere ai cittadini francesi e evangelici riformati che intendono stabilirsi nei suoi territori, 29 ottobre 1685. E qui rimangono qui, insomma, cioè, dà dei privilegi favolosi, soldi, come... Poi c'è il testamento politico del 1752 di Federico il Grande, poi in realtà è lungi dal morire, comunque parlo del testamento politico, che più invece relativo al problema della tolleranza vale la pena magari dargli un'occhiata così per capire il problema religioso. Cattolici, luterani, riformati, ebrei e molte altre sette cristiane abitano in questo Stato e vivono in pace. Se un sovrano, pagina 17 siamo. Se un sovrano particolarmente zelante volesse dichiararsi per una di queste religioni, si formerebbero da prima partiti, si intensificherebbero le dispute, poi a poco comincerebbero le persecuzioni, fino a che la religione perseguitata abbandonerebbe la sua patria e migliaia di sudditi andrebbero a arricchire i nostri vicini con il loro numero e la loro industria. Per la politica è oltremodo indifferente che un sovrano professi una religione oppure no. Tutte le religioni, a voler vedere, sono fondate su un sistema di favole più o meno assurdo. È impossibile che un uomo di buon senso che esamina da vicino queste materie non ne veda l'errore. Ma questi pregiudizi, questi errori, queste favole sono fatte per gli uomini. Bisogna saper rispettare il pubblico e non scandalizzarlo nel suo culto, di qualunque religione sia. Faccio una parentesi. Questo uomo che scrive questa roba nel 1752 è lo stesso uomo che 10 anni prima ha scritto l'Antimachiavelli, in cui confuta appunto l'immoralismo di Machiavelli. Poi continuiamo. Gli ebrei sono i più dannosi perché fanno torto ai commerci dei cristiani e sono inutili allo Stato. Noi abbiamo bisogno di questa gente per fare un certo commercio in Polonia, ma bisogna impedire che il loro numero aumenti, limitarli non più a un certo, non più, che a un certo numero di famiglie, ma di teste. Non più a un certo numero di famiglie, ma di teste, che si capisce sono politici, non so, quindi dice teste. E eliminare il loro commercio, impedendo che facciano delle imprese all'ingrosso in modo che siano solo dettagliati, cioè li vuole utilizzare veramente solo come meteci. Le altre sette cristiane sono qui tutte tollerate. Si chiude così la bocca a chiunque voglia incitare alla guerra civile, si copre di ridicolo le opinioni degli autori. Io sono neutro tra Roma e Ginevra. Io cerco di essere in buoni rapporti con il Papa per ottenere così la fiducia dei cattolici e far loro intendere che la politica dei principi è la medesima, quando anche la religione che rappresentano fosse diversa. Consiglio però ai posteri di non fidarsi del clero cattolico, a meno di non avere prove autentiche della sua fedeltà. Suo nonno, Federico Guglielmo, era stato molto più... Federico, il grande lettore, bisnonno, era stato in realtà molto più duro nei confronti dei cattolici. Li tollerava, ma... Questa qui è molto bella, la pagina 18, c'è una lunghissima corrispondenza.